Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, riparte una nuova settimana di Salva Danaio, ben ritrovati. Allora, oggi molti di voi avranno avuto modo di notare che da oggi il Sole 24 Ore del lunedì ha una veste nuova nel contenuto. Da oggi c'è un focus, quello sulla situazione delle piccole e delle medie imprese italiane, la spina dorsale del sistema produttivo ed industriale del nostro paese, il modello che molti ci invidiano, il modello di questo paese che ci racconta, che racconta l'Italia in tutto il mondo. Noi oggi ci occupiamo di questo argomento che non è frequentato spesso da Salva Danaio, però dietro all'attività delle piccole e delle piccolissime imprese italiane ci sono storie di molte famiglie che negli ultimi 3 anni hanno vissuto difficoltà e momenti complessi, per cui ci è sembrato interessante portare anche all'attenzione degli ascoltatori di Salva Danaio, fra i quali sicuramente ci sono anche tanti piccoli imprenditori, questo argomento di grande attualità. Allora noi mutuando proprio anche gli aspetti trattati dal Sole questa mattina, cercheremo di capire che impatto ha sull'attività delle PMI e sulla loro vita la guerra valutaria in corso, per esempio, anche se poi non tutti sono d'accordo nel definirla in questo modo, e che percorsi nuovi possono essere intrapresi per chi ha la forza di, nonostante la congiuntura difficilissima, internazionalizzarsi. Quali mercati, quali sbocchi ci sono? Allora oggi abbiamo messo insieme un bel gruppo di interlocutori, intanto le colleghe del Sole 24 Ore che si sono occupati di questi approfondimenti. Chiara Bussi, ciao, bentornata a Salva Danaio. E Micaela Cappellini, benvenuta anche a te. Buongiorno. Poi abbiamo il professor Stefano Manzocchi, ordinario di economia internazionale presso la Facoltà di Economia dell'Università LUISS di Roma. Professor Manzocchi, buongiorno. Buongiorno. Che è stato intervistato appunto per queste pagine, e poi naturalmente noi ci aspettiamo stamattina anche qualche testimonianza all'800 24 00 24, oppure al 349 238 6666, se volete intervenire in diretta oppure scriverci degli sms. Ci piacerebbe capire se siete tra i piccoli imprenditori interessati in qualche maniera alle tematiche che affrontiamo questa mattina, se siete stati un po' sull'otto volante anche con la vostra attività a causa di questo euro molto forte che naturalmente sta deprimendo le nostre esportazioni, e però siete anche così alla finestra a cercare di prendere in considerazione altri mercati sui quali portare i vostri prodotti, siete degli imprenditori che stanno cercando delle idee nuove appunto per in qualche maniera affrontare nuovi mercati. I temi da affrontare stamattina sono moltissimi, e quindi interagite con noi perché ci piacerebbe sentire come la pensate. Allora, tema di oggi è anche l'euro forte, vediamo un po' stamattina come sta andando. 1,40-45, nuovo record minimo del dollaro sullo yen, ancora a testare i minimi da 15 anni a questa parte. Il tema valutario è stato l'oggetto delle G20 del fine settimana in Corea del Sud, ma a quanto pare grosse indicazioni non è che siano emerse da questo vertice, si prendono insomma sempre in esame le considerazioni più importanti, poi alla fine le decisioni per frenare questa turbolenza valutaria non è che siano state dirompenti, tanto che appunto il dollaro continua a scendere nei confronti di tutte le altre monete. La borsa è positiva. Parigi sta salendo dello 0,55%, Francoforte dello 0,7%, Londra dello 0,61%, invece la grande depressa d'Europa stamattina è Milano, perde lo 0,33% sul FTSE MIB. Le motivazioni le abbiamo raccontate nel corso del giornale radio. Il Banco Popolare, come anticipato da Radio 24 sabato, ha lanciato questo aumento di capitale da 2 miliardi. Il mercato per la verità era già un po' a conoscenza di questa notizia, l'indiscrezione circolava da tempo, ma la formalizzazione ha comunque depresso e il titolo, perché quando si tratta di chiedere nuovi soldi al mercato, ovviamente il mercato poi penalizza, ma soprattutto questa notizia sta trascinando a ribasso tutti gli altri titoli del settore. Monte dei Paschi in particolar modo meno 3,68%, perché il mercato sostiene che questa potrebbe essere la banca successiva a fare una richiesta del genere o a lanciare un'iniziativa del genere, un'operazione straordinaria del genere. Il gruppo stamattina ha smentito, ma il mercato ci crede poco perché il titolo scende parecchio. Intesa meno 2,26, UBI Banca meno 2,21, Popolare di Milano meno 1,94, Mediobanca meno 0,95, quindi insomma settore bancario stamattina un po' nella bufera. Va bene invece il lusso, più 3,26%, perché c'è l'altra notizia che ha movimentato il settore. LVMH sale nel capitale dell'altra concorrente francese Hermès, quindi insomma il settore del lusso qualcosa si muove. Bulgari ne beneficia con un rialzo del 3,26%. Pirelli più 2,51, Ansaldo più 1,74, questi i migliori titoli del settore. Noi lasciamo la borsa e andiamo invece al tema di questa mattina. Siccome abbiamo tanti ospiti e tante cose da raccontare, curiosamente, rispetto a come facciamo sempre, non abbiamo preparato la nostra scheda, ma vogliamo raccontare, insomma, meglio delle nostre possibilità oggi questa nuova veste del Sole 24 Ore del lunedì, partendo dalla cronaca, come vi dicevo. Archiviato il G20, che ha dato indicazioni generiche sulla guerra valutaria in corso, tanto che stamattina, come vi dicevo, il dollaro è di nuovo ricompresso da tutte le altre valute. L'altro appuntamento a cui ora si guarda è fissato per il 2 novembre, le elezioni di metà mandato per gli Stati Uniti. Chiara Bussi, cosa c'entra tutto questo con le piccole e medie imprese italiane? Certo, noi siamo in edicola oggi col Sole 24 Ore, con una veste tutta rinnovata e con un focus particolare sulle PMI. Abbiamo approfondito in particolare il tema della guerra delle valute, quindi cercando di vedere come le PMI stanno affrontando questa guerra delle valute, di che cosa si tratta, quali sono le principali strategie messe in campo dalle PMI per arginare le perdite derivanti dalla forza dell'euro e quindi dalla difficoltà ad esportare. Abbiamo poi un focus particolare anche su mondo e mercati. Torna infatti la sezione mondo e mercati con un approfondimento su le nuove frontiere dell'internazionalizzazione per andare oltre i BRIC, le nuove opportunità di investimento. Abbiamo una sezione particolare anche dedicata alla business education con l'Erasmus per i giovani imprenditori, un'iniziativa messa in campo dalla Commissione europea. Poi non dimentichiamo le altre sezioni tradizionali del nostro giornale, e ci avviciniamo sempre più, diciamo, al quotidiano, con una sezione dedicata alla cultura, a commenti, inchieste, la tecnologia e la moda. E insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti, tutte le declinazioni possibili ed immaginabili sulla situazione delle piccole e medie imprese. Noi, tra l'altro, lo racconto perché magari sono a volte anche piccoli aneddoti che divertono i nostri ascoltatori, eravamo tutte e tre insieme a Prato due settimane fa al forum della piccola e della media impresa, dove evidentemente di tutti questi problemi di cui oggi si parla sulle pagine del Sole si è ampiamente discusso, perché le piccole e medie imprese invocano grande attenzione anche dal punto di vista politico per poter meglio essere supportate quando decidono di andare sui mercati internazionali. Micaela Cappellini, tu sei la, come dire, responsabile della prima di Mondo e Mercati oggi, e hai fatto proprio un piccolo, non dico sondaggio, ma un monitoraggio molto attento su quelli che possono essere in questo momento i mercati più attraenti, più interessanti per le piccole e medie imprese italiane. Magari di interessanti ce ne sono tanti, ma quali possono essere quelli adatti? È tramontato intanto il cosiddetto mito del BRIC? Non è tramontato il mito del BRIC, anzi c'è qualcuno che dice: fate attenzione negli altri paesi, cominciamo dai BRIC e poi andiamo oltre. Però in realtà i BRIC sono molto grandi, la Cina è un paese immenso di consumatori, di imprese, è una potenza economica ormai, quindi per una piccola media impresa italiana la Cina può essere un orizzonte troppo grande, può far spavento muoversi da sole. Allora ho preso un po' di esperti e ho chiesto: ma secondo voi, al di là dei quattro grandi giganti che continuano a trainare le esportazioni verso i paesi emergenti, se voi foste una piccola impresa dove andreste? E per esempio alcuni mi hanno detto la Turchia è un paese vicino, logisticamente ci si mette pochissimo ad arrivare sulle coste. Ci sono 72 milioni di consumatori, che non è che ci facciano proprio schifo. Non sono, insomma, pochi, ecco. Hanno un reddito crescente e al 40% sono molto giovani, quindi è un mercato particolare dove determinati tipi di prodotti del Made in Italy, penso alla moda, penso anche ai prodotti alimentari, che sono fondamentalmente il grosso delle esportazioni per i beni di consumo italiani, sono la moda, il tessile e gli alimentari, la Turchia potrebbe essere un paese di tutto rispetto, non solo perché visto le politiche del governo turco che vanno verso i paesi, chiamiamoli difficili, perché oltre a oriente della Turchia ci sono l'Afghanistan, c'è l'Iran, c'è l'Iraq, sono paesi difficili, però in realtà aprono mercati, per cui fare ponte dalla Turchia per andare verso l'Iran o verso l'Iraq potrebbe essere una dimensione da non scartare. È vero che non sono stabili, ma la Turchia per il momento lo è, quindi potrebbe essere, perché no, a volte la geografia politica va guardata anche, certo, per opportunità, non solo per rischio questo forse è il motivo per il quale è necessario anche il supporto politico alle imprese che vogliono andare un po' in giro per il mondo. Poi esploreremo anche gli altri terreni che hai individuato tu, Michela, però volevo sentire un attimo su Chiara, perché lei invece nel suo pezzo PMI, la miglior difesa all'attacco, ha parlato proprio delle modalità con cui le aziende reagiscono al mini dollaro o al super euro. Intanto, quali settori sono i più penalizzati? Quelli che appunto identificano un po' la piccola e media impresa italiana sono più penalizzati da questa turbolenza valutaria, Chiara? I settori più penalizzati sono quelli del made in Italy tradizionale, come la meccanica, il tessile, le calzature e l'arredo. Diciamo che le conseguenze possono essere pesanti sul fatturato, sui margini di profitto. Noi ci siamo lasciati alle spalle una settimana caratterizzata dal G20, finanziario di Corea, su cui c'erano molte aspettative per una, diciamo, non proprio una soluzione, ma una schiarita sulle turbolenze valutarie. In realtà non è successo questo. C'è stato nel comunicato finale un accenno alla necessità di porre fine alla svalutazione competitiva delle valute, però questa settimana, come ricordavi tu prima, si è aperta non sotto i migliori auspici. Il dollaro continua a essere forte, quindi le PMI italiane continuano a essere in difficoltà e sotto pressione. E allora, sentiamo il professor Manzocchi, sentiamo un po', come dire, il mondo accademico, cosa pensa di tutta questa situazione. L'unica strada, è stato il tema della sua intervista rilasciata al Sole, è diventare global. Certo che con questi scenari valutari, professor Manzocchi, per una piccola impresa italiana non è esattamente facile, a meno che non sia già un percorso intrapreso da anni, consolidato, e quindi in questo caso si tratta di tenere la situazione. Ma per chi si affaccia sui mercati internazionali è un buon momento, secondo lei? Ma dipende, perché come sappiamo l'euro forte rende i prodotti italiani un po' meno competitivi sui mercati della zona non euro, ma al tempo stesso l'euro forte, che è la moneta di cui le imprese dispongono, rende più facile e più conveniente ad esempio fare acquisizioni all'estero. Quindi l'euro forte è da sempre un'arma a doppio taglio: da una parte può ridurre la competitività dei prodotti che vendiamo, dall'altra può rendere più facile e più conveniente acquisire non necessariamente, non sempre, stabilimenti produttivi all'estero, ma ad esempio quote di società di distribuzione in paesi emergenti, il che può risolvere a volte un problema che le imprese italiane hanno, le imprese europee in generale, che è quello spesso di, soprattutto le medie e piccole imprese, di vedere i loro margini ridotti a causa del gioco della grande distribuzione, che in qualche modo si impadronisce dei margini perché costringe le imprese a cedere i prodotti e poi lucra su questi prodotti su mercati lontani. Ecco, ma professor Manzocchi, le piccole e medie imprese italiane adesso hanno affrontato anche gli ultimi 3 anni di crisi economica e l'hanno subita anche in maniera dirompente, peraltro anche con la forte penalizzazione che è arrivata dal mondo del credito, che sappiamo bene ha tagliato le risorse. Molte società ci hanno raccontato in passato che hanno dovuto subire per esempio il taglio da un giorno ad un altro degli affidamenti concessi dalla banca, gli scoperti di conto e quant'altro. Secondo lei c'è adesso un tessuto produttivo in grado di disporre di liquidità sufficiente per poter fare quello che lei suggerisce, appunto addirittura cercare delle opportunità di acquisizione all'estero, anche se non di magari intere aziende, ma comunque anche di singole nicchie? Ma questo effettivamente è un problema. Da questo punto di vista le nostre imprese sono abbastanza penalizzate, in questo senso che naturalmente le banche, che sono spesso, almeno nel nostro paese, grandi imprese internazionali, se non altro i due grandi gruppi bancari che hanno il loro fulcro in Italia, cioè Intesa e Unicredit, queste banche dovrebbero agire su due fronti: da una parte, quello a cui lei faceva cenno, fornire liquidità per quanto riguarda il capitale circolante, per quanto riguarda i mezzi che garantiscono proprio il funzionamento e il sostentamento e la prosecuzione dell'attività di impresa. Non dimentichiamo che le nostre imprese sono, soprattutto le piccole, penalizzate ad esempio dai ritardi del sistema dei pagamenti e quindi dei loro clienti, che siano altre imprese private o soprattutto la pubblica amministrazione. Sì, ma anche altre imprese private, altri gruppi. È un domino, poi alla fine diventa, certo, che se comincia a non pagare uno si riflette su tutta la catena, ovviamente. La, se la pubblica amministrazione paga ad un anno, come a volte accade, questo appunto è un effetto domino. Quindi la liquidità bancaria deve servire appunto intanto per garantire il funzionamento e la prosecuzione dell'attività di impresa, ma c'è un'altra funzione che le banche devono svolgere. Professor Manzocchi, me la dice dopo la nostra pausa, poi gliela ricordo io. 800240024, numero verde per i vostri interventi, e tra pochissimo. Il baricentro della crescita mondiale si sta spostando verso i paesi emergenti, che da luoghi di produzione si stanno trasformando anche in centri di consumo. Intercettare questi nuovi consumatori è essenziale. Per questo nuovo scenario, le piccole e medie imprese devono accrescere le loro dimensioni con diversi strumenti, alleanze, partenariati e reti d'impresa. E proprio su quest'ultima opzione bene ha fatto il governo, lavorando come sta facendo tuttora ai bonus fiscali per quanti vorranno scegliere questa nuova modalità. Diventa quindi strategico ripensare il sistema a supporto dell'internazionalizzazione, razionalizzando le attività e gli enti preposti al sostegno della promozione all'estero e prevedendo un unico piano organico gestito a livello centrale. Va dunque capitalizzato il valore del Made in Italy, senza disperderlo in una sterile frammentazione tra Made in su base regionale o, peggio ancora, comunale. E quello che abbiamo sentito era Vincenzo Boce, presidente dei piccoli imprenditori di Confindustria. L'intervento, questo stralcio di questo intervento, lo abbiamo registrato al forum della piccola e media impresa di Prato, che si è svolto 2 settimane fa, dove appunto le piccole e medie imprese sono tornate a sollevare l'attenzione sulle loro condizioni attuali, che sono complicate per tanti motivi, ultimo dei quali appunto questo euro forte che naturalmente deprime la competitività sui mercati internazionali per quella che abbiamo definito la spina dorsale del sistema produttivo italiano. Allora, noi, siccome questa mattina è un tema che viene affrontato a 360 gradi dal Sole 24 Ore del lunedì, abbiamo sterzato un po' dagli argomenti tradizionali di Salva Danaio per occuparci anche di questa situazione, perché, come dicevamo prima, ovviamente oltre a parlare della spina dorsale del nostro paese, parliamo anche di tante famiglie che hanno avuto non pochi problemi negli ultimi anni. Magari è come famiglie degli imprenditori che sono state sul lotto volante per la condizione economica, ma anche perché queste piccole e medie imprese impiegano anche tanti lavoratori, molte hanno dovuto chiudere i battenti, molte famiglie hanno dovuto sopportare anche queste situazioni. Allora, Chiara Bussi e Michela Cappellini, le colleghe del Sole 24 Ore che questa mattina sono con me a raccontarci un po' come e quali aspetti sono stati affrontati dal Sole questa mattina, e poi abbiamo interrotto brutalmente prima le considerazioni del professor Stefano Manzocchi, ordinario di economia internazionale alla LUIS di Roma. Professor Manzocchi, stavamo parlando del contributo che può dare il sistema bancario italiano all'internazionalizzazione delle imprese, ma per farle concludere il discorso che stava facendo prima, io le aggiungo un'altra considerazione. Lei dice che le banche dovrebbero fare di più, soprattutto quelle che sono già presenti sui mercati internazionali. Qui si parla dei due grossi poli bancari italiani, Intesa San Paolo e UniCredit, quindi tra l'altro banche che partecipano alle attività e alle come dire, missioni di sistema, no? Che il governo fa con l'ICE, con Confindustria, e quindi vanno sui mercati internazionali accompagnando le imprese. Poi magari in Italia tagliano gli affidamenti, gli scoperti di conti, insomma poi si vive questa contraddizione di fondo che è stata più volte portata alla luce. Che ne pensa? Sì, dunque le banche sono naturalmente a loro volta delle imprese, e quindi le banche devono rendere conto ai propri azionisti, devono fare in modo che i loro affidamenti e i loro conti siano in ordine, quindi naturalmente non auspichiamo che le banche prestino senza criterio. Quello che stavamo dicendo era che da una parte tagliare il circolante, la liquidità, può mettere imprese che hanno prospettive, soprattutto le piccole e medie, in condizioni difficili, perché se i pagamenti non arrivano dai clienti e se non arrivano dei fidi che possano fare da ponte, queste imprese magari sono solvibili ma non riescono a essere liquide. D'altra parte, io quello che stavo dicendo, e lo dico rapidamente, è che le banche, come lei accennava, soprattutto quelle presenti all'estero, non dimentichiamo che UniCredit è tra le primissime banche presenti nell'est europeo, che è un'area che ha risentito non tantissimo della crisi, anche se più di altre aree emergenti, ma che in prospettiva crescerà nei prossimi anni a un ritmo almeno doppio di quello dell'Europa antica, diciamo, della vecchia Unione Europea, 15. Allora, UniCredit e Intesa, che sono presenti in molti mercati, soprattutto lontani, possono capire meglio delle imprese piccole, quali sono le prospettive di quei mercati, e in alcuni casi quasi organizzare il lavoro e coalizzare, coordinare filiere di piccole imprese che possono forse sfruttare opportunità in quei mercati anche per esempio con acquisizioni all'estero. E qui io credo che non parliamo tanto delle antiche delocalizzazioni che servivano a risparmiare sul costo del lavoro. Qui parliamo della possibilità, ad esempio, di gruppi, filiere di piccole imprese, ad esempio attraverso lo strumento dei consorzi all'export, che possono acquistare quote in società di distribuzione o addirittura fare investimenti ex novo in società di distribuzione in paesi lontani, perché questo consente poi di mantenere il valore aggiunto dei prodotti. Se invece, come dire, le imprese sono semplicemente alla fine dei contoterzisti che vendono il loro prodotto ai grandi dealer internazionali, a Walmart o a queste grandi catene, vendono probabilmente a prezzi bassissimi. Certo, la capacità contrattuale si riduce sensibilmente, certo. Benissimo. No, parlavamo dei mercati dell'estero, il professor Manzocchi citava questi. Michela, la Polonia mi sembra che sia uno sbocco di tutto interesse per le PMI italiane. La Polonia ritorna sulla cresta dello... Intanto la Polonia è uno dei pochi paesi dell'Europa dell'Est che non ha subito troppo l'ultima crisi. Gli altri invece, insomma, non... un po' hanno accusato il colpo. Altro che hanno dovuto chiedere anche soldi, insomma, alla comunità internazionale. Però, insomma, sembra che la Polonia abbia retto meglio e si prepari, non diciamo nel 2011, ma dal 2012 in poi, secondo gli esperti della SACE, dovrebbe diventare un grande mercato di sbocco per molti dei beni di largo consumo che verranno prodotti nella vecchia Europa dell'Ovest. Quindi sì, per alcuni va rimessa in lizza, nonostante sia un mercato vicino, nonostante ormai sia Europa, cioè nonostante è un mercato da rivalutare nei prossimi anni, non subito ma nei prossimi anni. Quando siamo state a Prato, mentre io conducevo Focus Economia da quel posto, Chiara e Michela erano in giro a cercare le storie dei piccoli imprenditori. Adesso da Chiara me ne faccio raccontare qualcuna, se se ne ricorda qualcuna di interessante, ma qualcuna è stata riportata anche dal giornale questa mattina, ma noi ce ne sentiamo anche una dei nostri ascoltatori all'800240024, che è quella di Marco dalla provincia di Arezzo. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno, sì. La chiamavo, ho sentito non tutta la trasmissione, solamente una parte. Si è messo in prenotazione per chiamare dall'inizio della trasmissione, credo che l'abbia sentita tutta. No, dall'inizio no. Comunque, solamente una piccola testimonianza di un piccolo imprenditore, abbiamo una decina di operai, facciamo articoli in ceramica e stoviglierie varie. Con il dollaro così, ecco, non è impossibile, non ci sono assolutamente margini di manovra. Ma perché, Marco, mi scusi, ma perché lei, per esempio, rimanere nell'ambito europeo, parlavamo del caso della Polonia, non le interessa, non ha mai preso in considerazione, vuole comunque spostare i suoi prodotti, far veicolare i suoi prodotti su altri mercati? Dove guarda? No, noi guardiamo ovunque, il problema è che per fare l'internazionalizzazione ci vogliono mezzi e noi non, con delle piccole imprese, con le banche non abbiamo nessun tipo di respiro o affidamento. O uno ha un grandissimo marchio come può essere Prada o Armani, allora i finanziamenti probabilmente arrivano, ma a piccoli imprenditori non ci è dato modo di investire nel tempo. Questo è il grosso problema che abbiamo, parlo a nome mio ma sicuramente anche tanti piccoli altri colleghi. E infatti, Marco, la ringrazio, in bocca al lupo. Naturalmente, Chiara, sicuramente questa è una campana che hai sentito risuonare più volte a Prato. Certo. Devo dire che nella ricognizione che ho effettuato presso le piccole e medie imprese per vedere quali sono le strategie messe in campo per fronteggiare l'euro forte, quindi questo pericolo competitivo, questa grande perdita dal punto di vista del fatturato, dal punto di vista di questi margini di profitto sotto stress, ho notato che ci sono alcune piccole e medie imprese che stanno cercando di rimboccarsi le maniche, di fare gioco di squadra, da un lato servendosi magari dei consorzi per l'export a cui faceva riferimento il professor Manzocchi. Ci sono questi consorzi, in Italia ce ne sono oltre 100 che fanno capo alla rete di FederExport, che sostengono appunto le piccole e medie imprese che magari non hanno tutti i mezzi per potersi permettere una società di consulenza o non hanno tutto un canale bancario già attivo e quindi ma fanno piccole già quante, un'antenna. Per esempio, qual è stata la tua sensazione? Un ascoltatore d'Arezzo avrebbe la dignità secondo per me poter, sì, aggregarsi sì, sì, potrebbe fare riferimento alla Federexport più vicina a lui. In Toscana ce ne sono effettivamente, sono divise anche, ce ne sono di monosettoriali, di multisettoriali, e cercano di fare in modo che si faccia sistema e prendono informazioni ad esempio su un paese in cui si intende investire. Chiaramente è un servizio che si paga, ma è un servizio che viene fatto al posto della società di consulenza, diciamo. I prezzi sono più modici e poi è un modo comunque di ascoltare anche le esigenze di altre imprese affine alla propria, di confrontarsi, di sentire altre storie di... certo, mal comune mezzo gaudio. Infatti, si dice qualche volta gaudio. Ci fermiamo, Chiara, per un attimo, ci sono suggerimenti perché in viaggio, poi andiamo alle altre ricette per non arrendersi alla crisi e anche alle tensioni valutarie tra poco. Ultima parte di Salvadanaio, oggi dedicata alle piccole e medie imprese italiane. Oggi abbiamo rubato il tema del Sole 24 Ore del lunedì, che dedica molte pagine, anche in questa veste nuova, alla condizione in cui le piccole e medie imprese si trovano in questo momento, come stanno affrontando la guerra delle valute e come cercano anche di cogliere le opportunità sui mercati internazionali, come possono internazionalizzarsi, dato che comunque la crisi ce l'abbiamo ancora addosso, non è mica alle spalle, per cui insomma ci sono delle opportunità ma anche delle difficoltà poi per andare avanti. E stamattina con noi Chiara Bussi, Michela Cappellini del Sole 24 Ore e il professor Stefano Manzocchi della LUISS di Roma. Allora, con Chiara Bussi stavamo raccontando un po' tutte le modalità con cui le imprese che magari così hanno il pudore di dire io non ce la faccio, sono troppo piccolo, come faccio ad andare sui mercati internazionali, ci sono dei passi che si possono fare. Ci raccontava dell'attività di Federexport, che è il sistema dei consorsi per le esportazioni. E poi che cos'altro si può fare, Chiara? Ci sono delle imprese che cercano di contrattare ad esempio sul tasso di cambio, come in una normale attività commerciale. Alcuni ci riescono, alcuni no. Altri invece cercano di fare shopping di componenti in valuta locale. Mi ha colpito molto invece una nuova tendenza, che è quella dei gruppi di acquisto. Ci sono ovviamente due o più aziende, si mettono insieme e acquistano ad esempio materie prime riuscendo a spuntare prezzi più favorevoli. Diciamo, l'unione fa la forza. No? Infatti. Ed è chiaramente, fa fatica a prendere piede questo tipo di gioco di squadra, perché spesso le imprese sono molto individualiste e non riescono a superare un po' le loro barriere individuali, però appunto quelle che ci riconoscono i vantaggi di questo tipo di strategia. Infatti, però quello dello stare insieme è stato anche un po' la filosofia di fondo che in questi anni ha fatto muovere, lo abbiamo raccontato tante volte, Confindustria, con il governo, con l'ICE, in queste azioni di sistema che sono state fatte un po' prima sui mercati grandi, la Cina e l'India, e però adesso si stanno esplorando altre opportunità. Michela Cappellini, credo che la prossima missione di sistema sia in Emirati Arabi. Emirati Arabi e Arabia Saudita a novembre. Si muoverà tutto il sistema, governo, imprese, Confindustria, banche ovviamente, e perché lì si ritiene che sia per esempio un grande mercato per i nostri beni di consumo. Non ci muoviamo solo per l'energia, ma non è solo il grande lusso, ci sono anche altri generi di beni. E poi gli Emirati sono sempre di più una piattaforma verso quest'area del mondo che, appunto, abbiamo detto anche prima, è instabili, ma offre grandi opportunità, e che tutta l'area del mercato iraniano, del mercato iracheno, cioè il Pakistan, sono tutti paesi molto vicini. Gli Emirati Arabi per esempio si candidano spesso a diventare la piattaforma logistica, ma non solo, anche produttiva, anche distributiva verso questi paesi, quindi una missione da queste parti può essere strategica per molto del Made in Italy, che potrebbe andare non solo in zona ma anche un pochino più oriente, non tra troppo oriente. Ecco, ma un po' quali di più, chiaramente missione di sistema è il sistema che va a portare la sua rappresentanza in queste aree, ma ci sono anche le aziende, ci vanno anche gli imprenditori in queste missioni. Vanno anche gli imprenditori. Quanto più sono grandi le missioni, quanto più partecipano anche è direttamente proporzionale alla presenza. Sì, partecipano e a volte però imparano anche a muoversi da sole. Per esempio, uno dice è molto difficile organizzarsi, però è vero che c'è grande confusione, ci sono le missioni regionali, ci sono le camere di commercio locali, però per una piccola e media impresa, anche solo su internet, guardando i siti internet, i programmi, vengono organizzate un sacco di fiere. Per esempio le collettive delle fiere per le PMI italiane sono un buon modo per arrivare in questi paesi, stringere mani e magari fare alleanze. Infatti qualche volta bisogna solo sbloccarsi un attimo mentalmente, sì, magari, sì, insomma. Allora, ancora un paio di testimonianze con un paio di imprenditori. Sono molto contenta che ci stiano chiamando all'800 24 00 24. Poi torno al professor Manzocchi, non mi sono dimenticata di lui. Sentiamo Cristiano da Roma, un altro ne abbiamo perso, che è successo. Cristiano. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei, sì. Buongiorno. Ci racconti, sì, no, tutto. Io, sì, ecco, volevo intervenire, proprio tutte cose interessantissime, tra l'altro di grande attualità. Il punto focale è quello di cui parlava il professor Manzocchi, cioè c'è una crisi di liquidità enorme e senza soldi le aziende non, qui non si, i soldi si prendono a babbo morto, e senza liquidità le aziende non possono andare da nessuna parte. In che settore, lei è un imprenditore, Cristiano, in che settore opera? Ce lo può raccontare? Grafico. Mm-hmm. Io non sono d'accordo con quello che ha detto Boccia, per esempio, perché anzi le piccole e medie aziende italiane più diventano grandi e più diventano fallimentari, nel senso che non riescono a stare in piedi proprio per questa carenza di liquidità. Quindi la penso esattamente l'opposto. Va bene, Cristiano, naturalmente il dibattito è bello, proprio perché ci sono... Col professor Manzocchi, che invece ha centrato bene in pieno il problema. Allora, ma guardi che poi non è che tutte le campane la suonino nella stessa maniera, perché credo che anche nel pezzo di Michela Cappellini, per esempio, ha sentito delle voci di persone che, per esempio, non credono assolutamente nella capacità delle imprese italiane di andare sui mercati internazionali, e poi ci faremo raccontare anche questo. Professor Manzocchi, ha sentito la sfiducia dell'ascoltatore romano? Tanto finché c'è problema di liquidità, dice, ma di che cosa stiamo parlando? Di aria fritta? Ma dunque, certamente, come dicevamo prima, la liquidità è la base per la sopravvivenza dell'impresa, quindi finché non c'è liquidità l'impresa non sopravvive. Una volta però che l'impresa sopravvive, ripeto, l'euro forte o comunque mutamenti dell'economia mondiale che in questo periodo sono estremamente accelerati, noi stiamo vivendo non solo una crisi congiunturale, una recessione, stiamo vivendo un mutamento epocale del capitalismo. Allora, sappiamo già che fra 20-10 anni la Cina sarà probabilmente la prima economia del pianeta, sappiamo già che la crescita dei prossimi anni sarà in quei mercati che non sono solo l'Asia, ma sono il Sud America e la sponda sud del Mediterraneo, l'Europa dell'Est, eccetera. Allora, è chiaro che per le nostre imprese, e qui mi fa piacere che l'ascoltatore di prima, l'imprenditore, mi dia ragione, ma io devo dire concordo totalmente con Boccia, con cui abbiamo condiviso naturalmente il lavoro di Prato. Allora, quello che sappiamo è che le imprese dovranno possibilmente crescere, perché questo gli consentirà di andare su mercati lontani più facilmente. Andare lontano costa, e quindi l'impresa più è grande più può sopportare i costi di andare lontano. Se non crescono e non ci riescono, l'alternativa è quella cui faceva riferimento prima la sua collega, di aggregarsi in tutti i modi, sia per gli acquisti che per vendere. Certo. Quindi i gruppi d'acquisto servono a trovare fornitori, materie prime a costi più bassi e in maniera più soddisfacente, i consorzi per l'export, oppure acquistare insieme pezzi di reti distributive, può servire a vendere meglio. E poi comunque, per chi non ha mai fatto, quello che vorrei dire io è che quando parliamo di andare lontano, adesso noi abbiamo in mente solamente la Cina e l'India, queste economie che sono effettivamente geograficamente lontanissime da noi, ma si può cominciare comunque con qualcosa di più, proprio per testare magari la capacità di un'azienda di starci poi su questi mercati. Micaela, c'è anche l'ambito sudafricano che... Beh, il Sudafrica è lontano geograficamente, però secondo alcuni resta una delle basi migliori per andare in tutta l'Africa, perché se si esclude la sponda sud, cioè i paesi che affacciano sul Mediterraneo, il Sudafrica, la punta estrema, rimane tuttora la base che distribuisce, produce, vende, organizza tutto quello che succede in gran parte dell'Africa subsahariana, e poi soprattutto è evoluto, ha un livello di evoluzione che adesso un po' l'abbiamo visto con i mondiali, ci siamo resi conto che non è più terzo mondo, o almeno non in parte, non completamente, ecco, e effettivamente ha strutture in grado di accogliere imprese, perché poi bisogna considerare anche questo: è difficile andare a produrre nel mezzo della giungla perché non c'è energia, quindi uno si deve portare il generatore, per esempio una grande azienda si attrezza, le altre un po' meno. Allora, noi avremmo dovuto affrontare tanti aspetti di questo argomento questa mattina, che è molto affascinante. Il nostro obiettivo era anche raccontare che sul Sole 24 Ore di oggi c'è il mondo delle PMI a 360 gradi, le opportunità per andare sui nuovi mercati, le difficoltà, anche come si affronta la guerra valutaria. Quindi io ringrazio Michela Cappellini e Chiara Bussi per essere state con noi. Professor Stefano Manzocchi, speriamo di poter riaffrontare presto un'altra volta questo argomento a Salvadanaio, che ho notato, insomma, ha suscitato anche grande attenzione, anche se non è un argomento che affrontiamo spesso. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Salvadanaio.